Sapissa che può andare a essere la civista crescere e cantare, la civista ridere e passare in lo scuro e non si crede. Si sapissa da passare stai a due. Buonasera bella Brianna mia, che sta pisando fino a noi. Buonasera ascoltando di Embasciutto, buonasera che avanzo per voi. Che paura prima me, non sai più che ti aspetta e che succede. Di Dio non è tu che puoi sapere, faccio pure c'è sto e chi pava sempre non sente l'amore. Piaccio viste non tu fuga chi ne roba e con un fiero amore. Buonasera bella Brianna mia, nessuno di voi ti vuole. Buonasera bella Brianna mia, che sta pisando fino a noi. Buonasera ascoltando di Embasciutto, buonasera chi torna a casa tu con tu.